Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Il tasso di inflazione nell'Eurozona ad aprile sale, esce dal territorio negativo, secondo la stima flash di Eurostat a zero, mentre a marzo era meno 0,1%. Stabile il tasso di disoccupazione, ma non per tutti i paesi. In Eurolandia il tasso di disoccupazione si è fermato, dato Eurostat all'11,3%, lo stesso di febbraio. Fermo anche nell'Unione al 9,8%. Flessione netta in Irlanda, Spagna e Polonia. Crescita altrettanto visibile in Finlandia, Croazia, Francia, Belgio e Italia. La parentesi legata al periodo natalizio, dicembre-gennaio, si è conclusa. La disoccupazione da noi ha ripreso la sua crescita. A marzo il tasso è arrivato al 13%. In rialzo anche quella giovanile, che nello stesso mese supera il 43%. In calo gli occupati e la storia si ripete. Dopo la diminuzione di febbraio, a marzo occupati in flessione dello 0,3%, con 59.000 unità in meno rispetto al mese precedente. Presto, dicono i tecnici Istat, per vedere gli effetti del Jobs Act e pensare che proprio questa mattina la BCE ci aveva nominati. In Italia e Spagna il miglioramento del clima di fiducia dei consumatori ha coinciso con un calo del tasso di disoccupazione, scrive la Banca Centrale nel bollettino mensile, dove parla anche del quantitative easing, quello stimolo esterno che da noi ancora non dà frutti. A Madrid invece è vero che la disoccupazione resta oltre il 20%, ma cala di 2 punti e il PIL cresce del 2,6%, oltre le attese. In Francia cresce la disoccupazione, ma cresce anche la spesa annuale dei consumatori. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La conferenza dei presidenti dei gruppi del Parlamento europeo ha deciso stamattina la convocazione urgente della Commissione per le libertà civili per affrontare la situazione in Ungheria dopo la dichiarazione del primo ministro Viktor Orbán in un possibile ripristino della pena di morte. La commissione discuterà anche la preparazione di un questionario rivolto ai cittadini ungheresi allo scopo di incoraggiarli ad aderire alle tesi del governo sull'immigrazione. Se si parla di piano B vuol dire che non si crede già più nel piano A. Parola di Pierre Moscovici, commissario UE agli affari economici. Quella del default greco, spiega Moscovici, è un'ipotesi dell'irrealtà. C'è solo il piano A che prevede la permanenza della Grecia nell'euro. I greci hanno votato per il cambiamento e il cambiamento deve arrivare, dice Moscovici, che deve riportare la Grecia ad una crescita sostenibile. Noi, dice il commissario, siamo pronti ad aiutare il popolo greco, non a punirlo. Sulla gestione dei crediti in sofferenza è in corso con l'Unione Europea un dialogo costruttivo ma complicato. Così il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan al Salone della Giustizia, ribadendo che si sta cercando una soluzione che rispetti la normativa sugli aiuti di Stato e che sia utile per disincagliare questi crediti. Padoan ha sottolineato che se la questione dei crediti in sofferenza potesse essere risolta in modo rapido, la crescita debole che si sta affacciando potrebbe essere accelerata. Quando sono le 14:05:13, vi saluta qui Daniele Biacchessi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.